prevedevo che Fiat non arrivasse al 30, ritenendo che il 29 fosse un loro livello ottenibile. Difatti loro sono arrivati al 29,2, l'anno scorso avevano il 32,1, significa 3 punti quasi di calo sullo share assoluto del mese, che pure è bassissimo. Alfa va bene perché loro hanno una nuova Giulietta, e quindi quando Alfa riesce a traguardare, come questo mese, un 4% rispetto al 2,5% che aveva l'anno scorso, e Alfa che dà un po' di linfa a un gruppo che con la marca Fiat perde oltre 4 punti di quota, perché è tutta la produzione generalista di un marchio come Fiat che subisce l'attacco di Golf con la Polo, subisce l'attacco di tutte le altre marche e resiste solo con la 500, ma la 500 ha gli onesti e buoni volumi che ha, mentre anche Panda tende a flettere. È una situazione sulla quale io ritengo, abbiamo già parlato abbastanza, e il gruppo Fiat che non ha sufficiente capacità di contrastare chi come Volkswagen addirittura fa quasi l'8% di quota, 7,9, e aumenta dell'1% in assoluto la quota di share, avendo una diminuzione, come prima si diceva, di un solo 5% rispetto al 21%. Poi abbiamo questo fenomeno che la domanda in questo periodo di crisi dei generalisti, salvo Volkswagen, salvo qualche altro gruppo, quali i coreani Hyundai e Kia, si sposta sulle marche premium con BMW, che ha un aumento di quota che va dall'1,8 al 2,4, Mercedes anch'essa dall'1,95 al 2,55, Audi che sfiora il 4% del mercato italiano grazie all'apporto della 1. Se aggiungiamo a questo aumento dei generalisti anche l'aumento di Alfa, che è un dei non generalisti, l'aumento di Alfa che è un brand premium, abbiamo che aumenti il peso dei brand premium per oltre il 4% di share sul mercato italiano. Mi scusi, cos'è un brand premium? I brand premium sono quelli nei quali un utente, se vuole, spende dai 20-25 mila in su, cioè quelle marche distintive che hanno alcuni nomi altisonanti